Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Questa puntata di Möbius inizierà portandovi in bicicletta, che fa bene e dobbiamo usarla di più. Buonasera a tutti e tutte e allora sentiamo insieme i titoli di questa puntata. Si chiama velocipede inerziale e gli hanno dato un premio. Migliora le prestazioni della pedalata umana e l'efficienza della bicicletta. La moglie di Darwin finisce a teatro, ma anche il famoso dilemma del prigioniero e il problema dei ponti di Königsberg. Uno spettacolo teatrale e un reading in un museo si ispirano a famose storie di scienza. La tecnologia della telemedicina progredisce sempre di più. Adesso sta chiusa in una valigetta, anche se un satellite in cielo è sempre necessario. A settembre la grande macchina riparte. Dal CERN di Ginevra, comunicato l'impegno a rimettere in funzione LHC fra 6 mesi, mantenendolo in funzione fino alla primavera del 2010. Ogni anno in Italia 300.000 tonnellate di pneumatici da riciclare possono trasformarsi in asfalto. È comprensibile pensare che la bicicletta come macchina non abbia più segreti, niente che si possa ancora scoprire su di lei dopo tanti anni che l'usiamo. E invece no. Perché no? Perché ci dimentichiamo che di questa macchina fa parte il nostro corpo. E allora ecco che Maurizio Meris vi racconta come da questa interazione uomo-macchina possono uscire delle novità. Tutti in gruppo a Ferrara. Ma a 7 km da Rovigo la lavagna registra il colpo di scena. Attua, maglia rosa e Geminiani maglia verde sono caduti. Gli assi si sono messi subito a tirare come dannati. Vola Coppi. Vola Magni. Vola Kubler. Il ciclismo io non l'ho mai capito. C'è il paesaggio, c'è il vento in faccia, c'è la metafora del viaggio, ma poi c'è tutta quella fatica. Il punto è che la bicicletta è un macchinario infernale, affascinante certo, ma tutt'altro che ottimizzato. Insomma, la bicicletta che tutti conosciamo, nonostante anche i perfezionamenti che si sono accumulati negli anni, ha mantenuto inalterata l'impostazione iniziale. E la notizia è, ma è una notizia per la verità nota da tempo, che l'impostazione è sbagliata. In che senso? Nel senso che è terribilmente inefficiente nel trasformare l'energia del corpo umano in movimento. Insomma, si potrebbe tirarne fuori molto di più, fare lo stesso percorso con meno fatica e certamente con qualche doloretto in meno. E proprio questo è il punto di partenza del lavoro di Francesco Cozzo e del suo velocipede inerziale ad alta efficienza. Buonasera, Cozzo! Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, Cozzo, allora la sua idea è stata selezionata insieme ad altre 4 tra 110 proposte che sono arrivate al Che Idea, un concorso organizzato da Chilometro Rosso di Bergamo e da Bergamo Scienza, che offriva l'opportunità di presentare la propria proposta innovativa delle idee, diciamo, ad un pubblico di partner potenzialmente interessati, quindi ricercatori, operatori dell'industria e così via. Lei è uno di quelli che ha vinto. Insomma, Cozzo, ci spieghi intanto che cos'è questo velocipede inerziale ad alta efficienza? Assomiglia alla bicicletta o non c'entra più niente? Sì, della bicicletta ha praticamente tutta l'architettura, mantiene quasi inalterata completamente l'architettura, salvo pochi dettagli che sono stati modificati più per questioni di ingegneria spiccia che di reale necessità, anche per dare una caratterizzazione spinta a questo nuovo veicolo. Okay. Sostanzialmente però rimane completamente una bicicletta, è una due posti dove il secondo posto è più portato e quindi lui non deve fare nulla, non deve pedalare, deve solo... Quindi non è un tandem, è proprio una seconda seggiola. Come funziona quindi? Quali sono insomma i principali accorgimenti o gli elementi distintivi originali che rendono questo mezzo più efficiente? Perché abbiamo detto che il problema è che la bicicletta in realtà è molto inefficiente. Ecco, sì, è importante definire che l'oggetto della ricerca e dello studio, che è durato anche parecchi anni, non è la trasmissione meccanica della bicicletta, perché bisogna non confonderlo questo principio, ma è l'aumentata efficienza del motore rappresentato dal nostro corpo. Okay. Quindi sostanzialmente migliorare quella che è l'efficienza proprio del nostro corpo. L'accoppiamento fra il corpo e il mezzo, in un certo senso. Esattamente. Andando proprio a rivedere i punti di contatto tra il motore corpo umano e il mezzo macchina, diciamo. Perfetto. Questo si può raggiungere, è stato raggiunto attraverso, sostituendo praticamente i vecchi pedali, uh-huh, con dei nuovi tipi di pedali, sì, che diventano sostanzialmente delle pedane, dotate di appoggi tibiali e collegate fra loro da un pendolo elastico sostanzialmente, che favorisce il passaggio dei quattro punti morti degli arti inferiori all'intorno del percorso cinematico della pedivella. Questa è la base, quindi la realizzazione della stabilità articolare. Il secondo elemento che mi sembra interessante è che voi avete previsto una sorta di sistema di accumulo poi dell'energia. È proprio così. Noi abbiamo chiamato l'intero sistema il Bionic Motor System. Mm-hmm. Questo smorzatore volanico che appartiene, diciamo, a una categoria che è un po' la frontiera della meccanica, che sono i dumping system, proprio i sistemi di smorzamento. Che diciamo intanto è un oggetto di piccole dimensioni, rotondo, sì, un oggetto cosa di piccole sarà? 15-20 centimetri di diametro, no? Sì, una cosa del genere. Esattamente, di bassissimo peso, perché siamo all'intorno sotto al chilo addirittura, quindi qualcosa che non condiziona neanche le masse in gioco, insomma, è in grado effettivamente di omogeneizzare, di rendere il più omogeneo possibile, sì, la trasmissione delle forze in gioco, quindi equilibrare gli squilibri temporali che ci sono. Cioè invece di alternare delle fasi di spinta violenta a momenti di rilassamento, lo sforzo risulta distribuito, fluido, abbastanza costante, sempre a tutte le andature, in tutti i momenti, è così, è questo? Sì, è proprio questo, tanto da minimizzare le dissipazioni interne che gli squilibri delle forze comportano, e tanto da ottenere effettivamente per l'utilizzatore quasi un effetto propulsivo. Quali sono i benefici per chi usa questo oggetto? Abbiamo capito fare meno fatica, ma ce ne sono degli altri? Sì, diciamo che forse fare meno fatica sarebbe meglio dire sostituire la fatica con uno stato di beneficio. Abbiamo la rimozione completa di tutti gli stati del dolore, sia durante l'atto motorio, sia quelli più importanti che possono sopravvenire nei giorni successivi se uno non è dotato di training. Se uno non è allenato, certo. Esatto, esattamente. Non c'è nessuna necessità di training anche per compiere percorsi chilometrici molto importanti. Di decine di chilometri. Diciamo anche 40-50 chilometri tranquillamente, tenendo conto che i consumi metabolici diventano anche molto molto piccoli. La vedremo in giro questa bicicletta? Ma diciamo che in qualche città d'Italia è già in giro sotto forma sperimentale e speriamo al più presto di vederla in giro in maniera massiva sostanzialmente. Certo. Grazie allora Cozzo, buona fortuna per la sua invenzione. Grazie a lei. Se ne sta fra l'Australia e l'Artico, l'isola di Macquarie. Ha una larghezza media di 5 km e una lunghezza di 34. Non se ne sapeva nulla fino al 1810, quando fu scoperta da navi che muovevano in quelle acque durante una stagione di caccia alle foche. Foche e pinguini abbondavano sull'isola di Macquarie. I cacciatori vi posero delle basi, portarono viveri e, come si sa, quando soprattutto allora le navi entravano in un porto, finiva sempre che dei topi, specie significativamente presente a bordo delle navi, scendevano a terra, pure loro. Nell'arco di poco tempo gli efficientissimi topi diventarono un problema per i viveri custoditi nelle stazioni costruite dai cacciatori. Intorno al 1878 si decise allora che un po' di gatti avrebbero fatto un buon lavoro. Ma si fece anche un'altra pensata, inserire nell'habitat animale dell'isola anche qualche coniglio, così che i cacciatori potessero facilmente cacciarli avendo quindi a disposizione del cibo buono e fresco. Si sa come sono i conigli, si riproducono con gran facilità. I gatti ci diedero dentro, ma tenere sotto controllo i conigli non è cosa facile. Stiamo avvicinandoci alla contemporaneità come anni. Nei primi anni 60 del secolo scorso si contavano circa 130.000 conigli sull'isola di Macquarie. La vegetazione, cespugli bassi ed erba sostanzialmente era quasi del tutto scomparsa. Basta animali, si disse. Ma chi lo disse? Non erano più i cacciatori a decidere a quel punto. Sull'isola erano le autorità australiane per la conservazione dell'ambiente che operavano con programmi di risanamento. Però allora si capiva poco, va detto, di equilibri ecologici. Dunque, dicevo, basta animali, si disse. L'idea nuova fu la mixomatosi, un virus che colpisce specificamente i conigli. Lo mettiamo in circolazione, inoculato su un certo numero di esemplari, e le cose andranno da sé, dissero gli esperti. E i conigli non la presero bene, e però presero pure il virus. Nel 1985 c'erano 20.000 conigli sull'isola e la vegetazione si era ripresa abbastanza bene. A questo punto immaginate di essere un gatto selvatico sull'isola di Macquarie. Cosa fareste? Mi pare evidente che comincereste a guardare con interesse tutti i tipi di uccelli presenti nei dintorni. Infatti, una strage. Per prevenire la scomparsa dei volatili, nel 1985 si iniziò un programma per eliminare i gatti. Nel 2000 fu ucciso l'ultimo gatto. Bene, l'ultimo rapporto sulle condizioni dell'isola dice che ci sono conigli dappertutto. La mixomatosi si sta esaurendo e la vegetazione pure. Non c'è niente da fare, insomma. Sembra banale potersi sostituire alla natura, ma non lo è. Sembra banale, attenzione, perché i meccanismi naturali sono effettivamente quelli. Anche la natura mette in moto dei virus come agenti selettivi e le epidemie naturali sono un dato reale e concreto. Ma il fatto è che se è lei, la natura, a miscelare gli ingredienti, le cose funzionano. Se siamo noi, non siamo all'altezza. Ci arriveremo. Chi può dirlo? Al momento non ci siamo e sarebbe meglio tenerne conto prima che un giorno, per esempio, la finale di Coppa dei Campioni non si possa giocare perché il campo è pieno di conigli. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci siamo al nostro gioco, siete pronti? Arriva il quiz. Dunque, poiché siamo nella settimana di San Valentino, un piccolo contributo lo si voleva dare pure noi qui a Mebius e abbiamo pensato di farlo con il quiz. Il quesito è il seguente. Siete su una spiaggia d'estate e passa un tipo o una tipa che attira la vostra attenzione, non come avviene praticamente sempre per le sue conoscenze, che ne so, nel campo dell'epistemologia polacca o per le sue interpretazioni dell'epistolario tra Bertrand Russell e Gottlob Frege, ma cade raramente, si è attirati, diciamo così, per le sue forme, per quella esteriorità che appunto una tanto comunque ci lancia un segnale. Or dunque, questo genere di emotività è sempre connessa a una dilatazione della pupilla, no? Gli occhi tendono ad aprirsi, perché agisce il sistema simpatico. Però, siete su una spiaggia, d'estate, c'è molto sole, e la luce produce una reazione opposta. La pupilla si chiude per proteggersi, perché interviene il sistema parasimpatico. Domanda, quale dei due riflessi fisiologici prevale in presenza del tipo o della tipa? Ci sono tre possibilità, come al solito. Una, si sono fatti gli esperimenti, prevale la protezione alla luce. Ci scriverete luce. Si sono fatti gli esperimenti, prevale la dilatazione, quindi occhi aperti. Ci scriverete aperti. Terza possibilità, dipende da chi passa, perché se un soggetto che per esempio è già entrato nelle nostre attenzioni fuggevolmente il giorno prima, suscitando un flash alquanto suggestivo e adesso si materializza lì sulla spiaggia, allora la tensione è notevole, insomma dipende, e ci scriverete questo, dipende. Dove scriverete? Beh, come al solito il numero di sms è 349-238-6666, il libro che si vince questa volta è Nati per credere, perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin. È scritto a tre mani da Vittorio Girotto, Telmo Pievani e Giorgio Vallorticara, edizioni Codice. In collaborazione con IBS.it. In questa parte di Mebius ci occupiamo di teatro e scienza e iniziamo domandandoci: la matematica può andare in scena, anche la logica? Non sembrerebbe una cosa facile, invece si può trarre ispirazione da alcuni temi particolarmente suggestivi delle ricerche in questo campo, per esempio il dilemma del prigioniero o i sette ponti di Königsberg. In effetti già così a denunciarli verrebbe da dire che pure un filmone con effetti speciali si potrebbe realizzare. Restiamo invece a teatro e ascoltiamo cosa ci racconta su ponti e prigionieri Chiara Albicocco. In questo momento sto entrando al Teatro Oscar di Milano, dove dal 12 al 22 febbraio va in scena Matematica con delitto. Due spettacoli in uno. Uno si chiama Il dilemma del prigioniero e uno I sette punti. Ecco, in questo momento sono in corso le prove dello spettacolo e io mi intrufolo a disturbare. All'ingresso una ragazza mi consegna un foglietto. È una sorta di bugiardino, uno di quei foglietti che si trovano nelle medicine. Ah, mi viene raccomandato di non aprirlo subito. Ecco, allora sto entrando e ci troviamo nel mezzo delle prove. Mi avvicino, ecco, è qui con me Maria Eugenia D'Aquino. L'artista che ha progettato lo spettacolo è anche l'attrice principale di questi due spettacoli in uno, giusto? Sì, salve. In realtà io sono l'inventrice di tutto il teatro in matematica, però è un pool di persone che lavora dietro a tutto questo. C'è una regia di Valentina Colorni, un drammaturgo Riccardo Mini, dei consulenti matematici, in questo caso Alberto Colorni e Roberto Lucchetti, che sono docenti del Politecnico, e poi altri tre attori oltre a me, Riccardo Magherini, Vladimir Todisco Grande e Marco Pezza. Insomma, siamo un bel pool teatral-matematico che adesso sta per affrontare la nuova avventura. Dunque, Maria Eugenia, lo spettacolo che va in onda stasera si divide in due atti. Il primo si intitola Il dilemma del prigioniero e nasconde una nota teoria matematica piuttosto complessa. La teoria dei giochi, che diciamo è diventata molto popolare grazie anche a un film, Beautiful Mind, che racconta la storia di John Forbes Nash Jr., che è stato, diciamo, chi ha perfezionato la teoria dei giochi e che ha vinto il Nobel per questo nel 94. Tema tosto, come l'avete reso? E questo è quello che vedrete, non svegliamo niente. E diciamo che è una storia gotica, un giallo dalle tinte un po' fosche. C'è un conflitto, c'è una situazione di due persone che si ritrovano isolate in uno chalet di montagna per elaborare una triste vicenda che hanno subito. E quello che appunto non posso rivelare è la dinamica di come si svolge questo conflitto, perché a me non sembra di conoscerlo, non mi pare di averlo mai visto. Eppure questo qua ce l'ha con me, almeno sembra così. Mi sveglia di notte e sussurra che io sono un assassino, che ho ucciso mia moglie. Al contrario invece dell'altro spettacolo, I sette ponti. Ecco, il secondo atto è sentito appunto I sette ponti e anche qua, insomma, il tema che si cela non è poi così banale. È un'altra teoria matematica, la teoria dei grafi, che è una teoria che apparentemente non dice niente, insomma, ai profani. In realtà è una teoria utilizzatissima, perché soltanto tutte le volte che guardiamo la mappa di una metropolitana stiamo osservando un grafo, oppure le connessioni internet, l'organizzazione dei voli di una compagnia aerea. Insomma, è una teoria che sta dietro e viene utilizzata anche inconsapevolmente da tutti i giorni. Questa volta si tratta invece di un giallo dagli aspetti più comici, un impavido detective che, applicando inconsapevolmente la teoria dei grafi, risolve i pesanti casi di omicidio e rapine. Oh, parliamo della mia città! La mia città ha sette ponti che attraversano il suo fiume. E agli abitanti di questa città, ai miei concittadini, nonché a me stesso, piace moltissimo passeggiare per questi ponti meravigliosi la domenica mattina. Siamo molto orgogliosi dei nostri ponti, noi altri. I sette ponti di cui si parla nello spettacolo e da cui prende il nome lo spettacolo sono i ponti della città di Königsberg, che hanno ispirato anche Eulero nella formulazione della teoria dei grafi. Ebbene sì, ha utilizzato i sette ponti della città per dimostrare che non è possibile percorrere i sette ponti con un unico tragitto, quindi senza passare due volte dallo stesso ponte. Un po' come il giochino che facciamo noi su un foglio di carta, quando disegniamo una casetta senza mai passare due volte sullo stesso tratto. Ecco, ma adesso torniamo allo spettacolo, torniamo a Maria Eugenia D'Aquino, che ci spiega quanto anche la musica giochi un ruolo fondamentale per questi spettacoli e sia quasi una coprotagonista. Direi che le musiche di Maurizio Pisati, in particolare la musica, perché Maurizio ha composto proprio un pezzo che si chiama Quartetto del Dilemma, è il terzo personaggio dello spettacolo Il Dilemma del Prigioniero. Ha costruito degli elementi sonori, il telefono, dei rumori, i topi in soffitta, e ha costruito sulla base di questi rumori una sorta di sinfonia che si compone proprio come con la struttura della teoria dei giochi. Ovviamente è molto sofisticato questo, non è così evidente, ma c'è tutta una costruzione musicale e matematica anche dietro questo tappeto sonoro che è la composizione musicale. Altra, diciamo, nota fondamentale, la scenografia, questa sorta di tabella tridimensionale è stata ideata da Riccardo Magherini, che è anche uno degli attori. Una componente fondamentale dello spettacolo di Dilemma del prigioniero sono i video, perché lo spettacolo è costituito proprio da una parte ripresa, che sono opera di Ino Lucia, così come tutte le immagini che verranno proiettate, perché lo spettacolo è abbastanza multimediale. Altro elemento fondamentale, ovviamente come in tutti gli spettacoli, ma in questo in modo particolare proprio perché ci sono riprese video, perché c'è un allestimento un po' speciale, sono le luci ideate dal nostro light designer Fulvio Michelazzi. Insomma, tutti gli ingredienti contribuiscono a cercare di farci rivivere la matematica in teatro. Senti, Maria Regina, quando sono entrata all'ingresso, alla reception mi hanno consegnato un bugiardino, come quei foglietti che si trovano all'interno dei medicinali, e mi è stato detto di aprirlo soltanto a fine spettacolo. Se ci puoi svelare, ovviamente non il contenuto, ma che cosa significa e che cosa spiega agli spettatori? Beh, questa è un'idea che mi è venuta per così rendere un po' spiritoso un foglio di sala, che è quello che dovrebbe raccontare un po' cosa c'è dietro lo spettacolo. Ho pensato di impostarlo come un bugiardino, quindi come un foglietto illustrativo, così per non spaventare le persone che sì, si avvicinano al teatro, magari sono un po' terrorizzate dalla matematica, quindi insomma ho scritto che non ci sono effetti collaterali, e solo che bisogna tenersi rigorosamente alle istruzioni, e cioè a leggere un po' le note dello spettacolo dopo averlo visto, per non rovinarsi la sorpresa, e leggere attentamente il foglietto illustrativo. Giovedì 12 febbraio era il compleanno di Darwin. In questo duecentenario della nascita si stanno facendo tante cose, noi sceglieremo quelle più originali, perché poi in questi anniversari si corre anche il rischio di avere una specie di overdose di appuntamenti. Oggi vi parliamo di un happening teatrale che si è svolto al Museo di Storia Naturale di Milano, dedicato a un particolare momento della vita di Darwin. Sentiamo questo servizio di Zelia Pastore. I 200 anni di Charles Darwin si festeggiano anche a teatro. Il Museo di Storia Naturale di Milano ha messo in piedi una pièce teatrale interamente dedicata al padre della teoria evoluzionistica, che si intitola «Quando Darwin incontrò il suo alter ego». Lo spettacolo è diviso in due parti, un reading e un monologo. Un primo gruppo di spettatori viene portato in una sala, dove un attore accompagnato da un sassofono legge brani tratti dall'Origine della specie, il capolavoro di Darwin. Gli altri spettatori verranno portati al cospetto della moglie di Darwin. In questo momento mi trovo qui alle prove. Sentite anche voi. È la voce di Federica Cassini, che nello spettacolo interpreta Emma, la moglie di Darwin. Charles sentì il mondo crollargli addosso e non poteva prendersela con altri, se non con se stesso, con il suo rimandare, con il suo perfezionismo, con la sua lingua lunga. Scrisse subito al suo amico e mentore Charles Lyde: «La tua profezia, che sarei stato preceduto, si è realizzata abbondantemente. Non ho mai visto una coincidenza più sorprendente». L'alter ego di cui si parla nel titolo è Alfred Wallace. Ma chi era questo Wallace? Lo chiediamo a Gianfelice Facchetti, il regista dello spettacolo. Si tratta di un giovane naturalista inglese che Darwin incontrò a un certo punto del suo percorso di studi, a un certo punto della sua vita. Darwin ricevette un manoscritto da questo Alfred Wallace, il quale in maniera molto più autonoma, indipendente, aveva fatto alcuni studi in giro per il mondo, sulle tracce un po' di quello che era il viaggio di un naturalista intorno al mondo di Darwin, quindi sulle tracce di Darwin stesso. Era arrivato a conclusioni a cui Darwin stava lavorando, non avendole ancora pubblicate. In questo breve manoscritto che spedì a Darwin, era riuscito a mettere quello che poi per Darwin era un compendio perfetto della sua teoria. E Darwin, che malgrado avesse precedentemente comunque mandato ad altre persone alcuni, chiamiamoli genericamente, appunti dove già c'era comunque la sua teoria della selezione naturale, quindi c'erano le prove per dimostrare che lui era già arrivato lì, però di fatto non erano ancora state pubblicate, e quindi si creò una prima fase di impasse, no? In cui si dovette trovare una maniera per uscire da questa fase critica, e attraverso la mediazione di due amici di Darwin, che erano Charles Lyell e Joseph Hooker, riuscirono a organizzare prima una presentazione congiunta dei due testi dell'opera di Darwin e di Wallace stesso, e poi pubblicarono gli stessi testi nel giornale di questa società londinese, la Linnean Society, per cercare quindi di metterli sullo stesso piano e di averne un confronto e vedere anche quali erano le prime risposte. La cosa curiosa rispetto a quello che potrebbe essere oggi il mondo degli studi, ma in qualsiasi campo, è che magari in una situazione contemporanea ci immagineremo che Wallace, davanti poi alla conoscenza del fatto che Darwin diceva di essere già arrivato lì, potesse arrabbiarsi, che ne so, immaginiamo uno che faccia causa, che quereli. Per Wallace, che era invece uno con un altro tipo di percorso, con un'estrazione sociale sicuramente molto diversa da quella di Darwin, fu invece un motivo di vanto. Quindi in realtà la sua reazione principale fu comunque di compiacimento. La cosa curiosa alla fine di tutta la storia è che poi verso la fine della sua vita Wallace in qualche modo si era ricreduto sulle sue posizioni evoluzioniste, arrivando in qualche modo a supporre che esistesse un'intelligenza superiore che aveva orientato lo sviluppo dell'uomo, quindi in realtà si era spostato su un piano diverso. Infatti Darwin scrisse: insomma, spero che non abbiate ucciso del tutto la mia e la vostra creatura, la vostra e la mia creatura. È una storia di tante piccole contingenze che secondo noi valeva la pena essere raccontata in questo bicentenario della nascita di Darwin. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oggi non si riciclano, di fatto sto parlando dei pneumatici, non possono ritornare a darci della gomma, il processo in questo caso avrebbe costi paradossali. Ma Maurizio Melis vi racconta come stiano arrivando idee molto interessanti per riciclare i pneumatici in altro modo, sentiamo. Ogni anno in Italia si dismettono oltre 300.000 tonnellate di pneumatici, una quantità enorme che dal 2003 non può più essere smaltita in discarica come avveniva. Che farne dunque? In gran parte questi pneumatici vengono bruciati negli inceneritori, ma si tratta di una soluzione di ripiego, non solo perché distrugge un materiale che potrebbe essere sfruttato in altro modo, ma anche perché si tratta di un'operazione che produce una gran quantità di emissioni inquinanti. Così due anni fa il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università di Milano Bicocca, in collaborazione con alcune aziende del settore della gomma, ha dato via al progetto Polago, un progetto con l'obiettivo di sviluppare nuove metodologie per l'impiego degli pneumatici fuori uso. La professoressa Marina Camattini ha coordinato questa ricerca, lei è direttrice del centro di ricerca Polaris, centro che si occupa di ricerca nel campo delle polveri in ambiente e del rischio per la salute che ne deriva. La professoressa Camattini è in linea con noi. Buonasera, professoressa. Buonasera. Dunque, anzitutto le chiedo di spiegarci come possono essere riutilizzati questi pneumatici. Allora, gli pneumatici vengono in genere, a parte quelli dismessi che finiscono negli inceneritori, che però rappresentano attualmente solo un 40% della quantità prodotta, vengono in genere resi in granulo, e i granulati vengono utilizzati per diverse finalità, vengono infilati in campi da calcio, in campi da gioco, in pannelli fonoassorbenti, in pannelli termici, e quindi hanno un riuso abbastanza diffuso. Ovviamente i problemi che si pongono sono quelli che riguardano la possibilità di infilare questi granulati con additivi congrui che ne consentano una buona mescola per un riuso. Quindi c'è un materiale di base che viene sostanzialmente macinato per essere ridotto in granuli, e poi il problema, le dice, quando lo mescoliamo con qualcos'altro non è detto che questa miscelazione venga bene, ed è un po' questo il tema della vostra ricerca. Sì, il tema è stato quello di provare a vedere se c'erano possibilità di modifica delle superfici di questi granulati in modo tale da renderli più miscibili con altri prodotti, per avere poi dei prodotti finali di uso migliori e quindi per aumentare la quantità di riuso di questo materiale e per migliorare i prodotti che ne derivano. Perché altrimenti che cosa succede? Questi granulati hanno la composizione delle mescole delle gomme e come tali sono costituiti da diversi elementi, sia metalli che polimeri e idrocarburi policiclici aromatici, quindi tutti elementi che in qualche modo, se rilasciati in ambiente, rappresentano un aspetto che potrebbe essere negativo se raggiungono determinati valori soglia. Quindi è evidente che il rendere più miscibili e quindi più inerti questi materiali nel riuso diventa per noi un aspetto fondamentale. Come funziona il tutto? Prendete questo granulato e cosa ci fate? Questo materiale, una volta che è stato verificato sia negli elementi che può rilasciare in ambiente, ci sono dei test di cessione che sono standard che noi facciamo, i quali danno indicazioni dei valori soglia degli elementi che vengono rilasciati in ambienti, quelli che sono a rischio e dettati dalla Comunità Europea. Questi, una volta che sono state fatte queste verifiche, questi elementi possono essere infilati nei prodotti che si vogliono poi costruire. Tra questi prodotti, la scelta che ha fatto questo gruppo che si è occupato di questa ricerca è stato quello di vedere la possibilità di infilarli negli asfalti. Che con dei benefici notevoli tra l'altro per l'asfalto. In questi giorni le piogge hanno distrutto le strade di mezza Italia, forse non sarebbe successo. Perché migliora l'asfalto, vero? Sì, questo io non lo possiamo dire perché siamo in via di sperimentazione. Noi abbiamo ottenuto questo granulato con impianti pilota, abbiamo quindi utilizzato l'industria chimica che ha partecipato al progetto e che ha fornito gli elementi chimici di miscela nella costruzione degli asfalti e ha messo in opera un certo numero di chilometri di asfalto autorizzati dal comune che ne ha consentito l'uso. Quindi i primi risultati sono assolutamente positivi, sia per la tenuta del materiale che è stato utilizzato, sia per non impatto sull'ambiente. Ecco, poi migliora proprio l'asfalto, mi pare che si riducano gli spazi di frenata, migliora l'asfalto dura di più perché è più elastico, subisce meno gli effetti per esempio delle escursioni termiche, è così? Dunque sì, certo, si riduce sensibilmente quello che è il rilascio in ambiente di micropolveri, che è un aspetto abbastanza pesante, si riduce la quantità di catrame di bitume che deve essere utilizzata, perché se aumenta la percentuale di gomma che può essere infilata, certo, chiaramente si diminuirà qualcos'altro, la percentuale del resto, e poi si ottengono chiaramente degli abbassamenti per quello che riguarda il rumore, la resistenza e quindi l'utilizzo della strada praticamente. Adesso che cosa succederà? Perché talvolta nel nostro paese, come dire, delle buone idee finiscono in un cassetto. In questo caso cosa pensa che succederà? In questo caso noi riteniamo che sarà la Regione Lombardia che ha finanziato questa ricerca attraverso un programma che si chiama Meta Distretti a diffondere questi risultati e a fare in modo che i comuni che in qualche modo hanno la gestione della viabilità mette in commercio questi prodotti, che ovviamente dovranno essere sperimentati non attraverso la costruzione di impianti pilota ma su larga scala. Quindi i comuni devono, come dire, commissionare le strade chiedendo che siano fatte con degli asfalti gommati, è così? E questa dovrebbe essere la strada corretta se si vuole utilizzare i risultati di ricerche, che sono costati abbastanza in termini finanziari, ma che in qualche modo dovrebbero rendere un ottimo servizio alla comunità che in qualche modo è stata quella che ha finanziato le ricerche. Va bene, allora grazie professoressa Camatini e buon lavoro. Grazie a voi. Si fa ricerca da anni in telemedicina, però nuove tecniche emergono, sempre più interessanti. Ve ne parla Chiara Albicocco. Fornire cure mediche a pazienti che stanno a parecchi chilometri di distanza dal medico che li è in cura. Ecco, questo è un po' il principio della telemedicina. Attraverso tecnologie informatiche e satellitari è possibile effettuare delle diagnosi cliniche anche su persone che non sono fisicamente nello stesso posto del medico curante. Pensiamo ora di applicare questa pratica in paesi in cui i piccoli centri abitati o i villaggi, dove sicuramente gli abitanti hanno bisogno di una copertura sanitaria, ma distano parecchie centinaia di chilometri dalle città principali dove sorgono gli ospedali di riferimento, sicuramente questa tecnologia è fondamentale. In questo ambito interviene la tecnologia messa a punto dal gruppo Telemedicina per la Cooperazione. È un braccio della Onlus Biteb. Biteb sta per Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico, che si occupa di portare l'informatica e la telemedicina ai paesi in via di sviluppo. Nostro ospite questa sera è Federico Cesari, che è ingegnere biomedico e fondatore di questo gruppo. Intanto buonasera Cesari. Buonasera. Ecco, io ho anticipato a grandi linee che cos'è la telemedicina, lei adesso ci deve spiegare qual è l'aspetto innovativo di questa tecnologia che voi portate nei paesi in via di sviluppo. Ok, il principio innovativo è quello di reingegnerizzare e adattare al nuovo contesto dei paesi in via di sviluppo, dei paesi del terzo mondo, una tecnologia che stava nascendo, che sta nascendo nei paesi invece sviluppati per la protezione civile. Il prodotto in che cosa consiste? In un kit grande più o meno come una valigetta 24 ore, nel quale sono contenuti alcuni device per l'acquisizione dei parametri vitali dei pazienti, una telecamera per effettuare una vera e propria visita a distanza da parte di un medico e l'apparato di telecomunicazione satellitare per inviare le immagini del paziente e i suoi parametri vitali al medico che si trova nel proprio ospedale di riferimento. Ecco, quindi si utilizza una tecnologia di tipo satellitare, perché ovviamente con la banda larga in questi paesi, non essendo diffusa, non sarebbe praticabile. Esattamente, l'UNESCO ha fornito delle tariffe agevolate per progetti di questo genere in Africa e in altri paesi in via di sviluppo, e questo permette di abbordare la tecnologia di connettività satellitare a prezzi accessibili anche per questi paesi. Lei ci diceva che appunto ha delle dimensioni ridotte, ma quali sono i costi? Sono facilmente sostenibili da un ospedale in un paese del terzo mondo? Il costo è molto ridotto, però della valigetta in sé per sé si parla di qualche migliaia di euro, ma veramente poche, abbordabile sia dall'ospedale stesso del paese in via di sviluppo sia a maggior ragione dalle Onlus o dalle ONG che hanno in carico il gemellaggio, comunque lo sviluppo di un'area sanitaria in un paese in via di sviluppo. Il mantenimento anche questo è piuttosto basso, ma noi crediamo che il progetto sia sostenibile in quanto il ritorno economico per gli ospedali che si avvarranno di questo sistema nei paesi in via di sviluppo possa essere maggiore della spesa di mantenimento e dell'investimento iniziale. Infatti gli ospedali che ricevono questo tipo di servizio hanno accesso a, ovviamente per la definizione stessa di telemedicina, a un numero maggiore di pazienti e quindi a un numero maggiore di rimborsi da parte del loro sistema sanitario nazionale, o comunque in caso di pazienti privati un numero maggiore di parcelle che copre amplissimamente la spesa della telemedicina. Quindi è facilmente ammortizzabile. Ecco, veniamo alle prestazioni. Che tipo di diagnosi e che tipo di visite si possono compiere? Allora, la più semplice è la vera e propria visita virtuale, cioè telecamera, microfono, interagire col paziente in tempo quasi reale. In secondo luogo, il segnale più diffuso è quello dell'elettrocardiogramma. Secondariamente abbiamo vari parametri, fra cui la saturimetria con un pulsossimetro, la capnografia, tutti i parametri che riguardano la respirazione e la glicemia per i pazienti diabetici. Un livello superiore comprende anche l'invio a distanza delle immagini dei vetrini acquisiti dal laboratorio di analisi, molto importante in questi paesi dove è molto sviluppata, come sapete, l'HIV, l'epatite e altre malattie che hanno bisogno per essere curate della presenza dell'anatomopatologo che legga appunto il vetrino. C'è una specie di scanner di telecamera che inquadra da tutta la definizione l'immagine del vetrino e permette di inviarla, più che di inviarla, di leggerla, di visualizzarla a distanza tramite streaming da parte del medico. Ecco, un progetto importante. Vorrei sapere a che punto siete con questo progetto. Avete già preso i contatti con i medici e gli ospedali? Sì. E quali paesi avete coinvolto per ora? Allora, i paesi coinvolti inizialmente sono Ghana, Uganda, e Costa d'Avorio, soprattutto per queste tre nazioni la parte nord del paese, che ha un solo ospedale di riferimento e un'area di circa 500.000 persone che fanno riferimento allo stesso ospedale di riferimento. Quindi un'area vasta con un'unica struttura. Esatto, con i pochi medici concentrati in quest'unica struttura, che di solito non superano dalle 3 alle 10 unità i medici presenti nell'unica struttura di riferimento per queste 500.000 persone. Ogni villaggio invece di queste aree ha un dispensario, un piccolo ambulatorio dove è presente uno o più infermieri o personale paramedico. Quindi la nostra idea è dotare questi presidi presenti in ogni villaggio di questo sistema di telemedicina, in modo che l'infermiere di turno possa aiutare il paziente del villaggio a inviare i propri dati all'ospedale di riferimento. È partito comunque il progetto? Esatto, sì, noi siamo già al lavoro, i nostri interlocutori sono, per quanto riguarda la formazione di medici e infermieri sull'utilizzo di questi device, sono le università locali che si sono offerte di fornire le loro prestazioni dal punto di vista logistico per agevolare la formazione sul posto. I nostri interlocutori sono poi ONG presenti sul territorio che agevolano i rapporti con le strutture locali e l'ospedale di riferimento delle poche grandi città in queste vaste aree, densamente popolate ma scarsamente coperte dalle prestazioni sanitarie. Grazie e buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del nostro quiz. Vi ricordate la domanda? Passa un tipo o una tipa sulla spiaggia che attira la vostra attenzione. È una classica emozione da dilatazione delle pupille, ma c'è il sole e questo genera contrazione delle pupille. Quale delle due reazioni prevale? Bene, la risposta giusta. Prevale la reazione di controdilatazione della pupilla. Il sistema parasimpatico che controlla la chiusura ha nervi più efficienti del sistema simpatico che controlla la dilatazione e quindi le pupille si chiudono. Questa era la risposta. Sta per ripartire la grande macchina. Ormai qui a Möbius la grande macchina è una sola, l'LHC, il grande acceleratore di particelle di Ginevra, che si è fermato qualche tempo fa. Intanto saluto te, Barbara Galavotti, ciao. Ciao Federico. Hai un tuo ospite, nostro ospite anzi, Sergio Bertolucci. Buonasera Bertolucci. Buonasera a tutti voi. Allora Barbara, presentacelo. Beh, Sergio Bertolucci è stato ospite nostro diverse volte per spiegarci i segreti della fisica delle particelle e adesso direttore di ricerca del CERN ed è fra gli artefici della ripartita di LHC, il grande acceleratore che era stato inaugurato a settembre. Allora, si era fermato praticamente subito dopo l'inaugurazione, adesso sta per ripartire, insomma lo sta per macchine di questo genere è sempre, come dire, non è dopodomani. Bertolucci, sono girate due informazioni, che riparte a luglio e che riparte a settembre, ci dica subito qual è la data giusta? La macchina ripartirà a settembre, ripartire è un termine generico in questi casi qua perché la macchina sarà fredda, pronta a partire, una macchina criogenica che lavora a temperatura di 2 gradi Kelvin, sarà fredda alla fine di luglio. Ma da lì in poi verranno fatti tutti i test di potenza e di fatto i fasci che incominceranno a circolare nella seconda metà di settembre. Questa è la nostra la vera data. Data. Per cui in questi casi qua io credo che tutti debbano sempre, per dire, ripartire non soltanto nel momento primo in cui la macchina può essere o è reso operativa, ma il momento in cui effettivamente opera. Ci ricorda, Sergio Bertolucci, per favore, cos'era successo? Era il 19 settembre, appena 9 giorni dopo l'inaugurazione ufficiale di LHC. Era successo un incidente, una connessione tra due magneti superconduttori che erano in quel momento sotto test, avevano 6.000 ampere dentro di corrente, si è aperta causando un arco che ha tagliato le connessioni dei tubi di raffreddamento e l'elio freddo si è espanso dentro il vuoto della macchina causando un danno molto esteso a circa 200 metri della macchina. Era un incidente che aveva una probabilità di succedere considerata trascurabile, e come tutte le cose che vengono considerate trascurabili non può colpire senza preavviso. Un agguato, soprattutto in macchine che sono uniche, cioè oggetti non confrontabili con nient'altro. E questa è una macchina assolutamente unica, per darle un'idea del livello di difficoltà, di queste connessioni dentro la macchina ce ne sono circa 20.000. La macchina ha energie immagazzinate dentro questi magneti quando funziona, che è paragonabile con l'energia di una portaerei che va a 20 nodi, e per fargli fare una transizione da superconduttore a conduttore normale basta l'energia di una goccia d'acqua che casca, cioè 100 microjoule, per cui il livello di funzionamento, di affidabilità e di controllo in questo tipo di attrezzature è veramente incredibile. Infatti voi avevate individuato questo problema con molta rapidità, però la vostra principale preoccupazione da subito non è stata tanto riparare il danno che si era creato, che pure era notevole, quanto evitare che si ripetesse una cosa del genere in futuro. Come avete fatto a rassicurarvi da questo problema? Beh, si fanno una serie di azioni, esistono azioni tecniche e esistono azioni di riesame. La cosa necessaria da fare in questi casi è farle tutte assieme. Noi abbiamo incaricato due commissioni di esperti esterni, tra l'altro, a questa cosa, e scelti tra i migliori specialisti del mondo, di affiancare i nostri esperti per vedere, per rifare quello che è l'analisi del rischio di questo sistema. Assieme a quello abbiamo migliorato il sistema di protezione di un fattore enorme, introducendo delle innovazioni tecniche che rendono il sistema 3.000 volte più sensibile di quello che era precedentemente, e questo è stato un grande successo tecnico, perché siamo riusciti a misurare, avere un sistema che è in grado di misurare con una precisione di un miliardesimo di ohm il problema di giunzioni che potrebbero diventare problematiche. Scusi Bartolucci, ci spiega un miliardesimo di ohm che cosa vuol dire? Non è molto immediato. Sì, vuol dire che se noi avessimo un filo con una resistenza di un miliardesimo di ohm, e questo ad esempio potesse essere ottenuto in maniera facile senza andare a rendere questo conduttore un superconduttore, noi potremmo, con una differenza di potenziale di un volt, fare passare un miliardo di ampere. Che è tantissimo, è molto di più di quello che consuma l'intera Francia. Insomma. Ecco, non si dice mai, però per far funzionare LHC ci vuole un costo di energia elettrica notevole, energia che il CERN poi, come chiunque di noi, prende dalla rete e paga di conseguenza. Sì. Questo è il motivo per cui in genere questo acceleratore non si fa mai funzionare nei mesi invernali. L'LHC è nuovo, ma gli acceleratori che erano venuti prima di lui avevano avuto gli stessi problemi, e questo perché in inverno l'elettricità costa di più, perché c'è ovviamente richiesta. Allora, la scelta di far funzionare LHC senza interruzione da settembre fino all'estate, sostanzialmente, la scelta che voi avete fatto, costa molto. Quanto costa? Costa un aggravio di circa 8 milioni di euro, che è circa il 40% del costo della corrente in un anno, per operare la macchina. Noi pensiamo che il vantaggio che viene in termini di recupero del tempo, di possibilità di portare la macchina alle sue prestazioni, e soprattutto il fatto che entro l'estate del 2010 a questo punto i dati raccolti porranno questa macchina davanti alla sua competizione, alle macchine di adesso, e con grandissime probabilità di già generare scoperte, valgano bene la pena. Noi vediamo questi 8 milioni di euro come parte del costo della riparazione, sono di fatto un costo della riparazione. Bertolucci, le chiedo un'ultima cosa, mi pare che riparando l'incidente avete introdotto dell'innovazione molto forte e interessante in fondo nella macchina. Sicuramente sì, queste innovazioni che non serviranno soltanto qui, ma serviranno per fare migliori diagnostiche anche al di fuori di questo campo, ad esempio nel campo della fisica medica. Grazie Bertolucci, ci sentiamo senz'altro a settembre. Grazie a voi. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Se c'è qualcosa che caratterizza la Grecia e l'ospitalità di questa nazione è la presenza in tutti i suoi paesi, lasciamo perdere Atene perché è una metropoli, quindi fa parte a sé, è la presenza di piccole taverne, piccoli bar, luoghi dove all'ombra di un berceau si può bere e mangiare qualcosa. Il dato è così evidente che gli archeologi si sono domandati come mai questa attività così diffusa oggi sembra non avere tracce nel passato. Ovvero, gli scavi archeologici su resti di insediamenti antichi, in Grecia sono davvero tanti, non hanno mai portato alla luce segni evidenti di antiche taverne. Qualcuno sì, certamente, ma pochi. A Pompei, per esempio, ve ne sono tanti. E un gruppo di studiosi della Università inglese di Leeds si è dunque tirato su le maniche, è il caso di dirlo perché il lavoro è stato faticoso, ed è andato a rivedere centinaia di reperti provenienti da case greche, reperti collocabili fra il 475 e il 323 avanti Cristo. Fra questi reperti tante sono le tazze, le coppe per bere. Fino ad oggi si è pensato che queste tazze fossero, come potremmo dire, il servizio buono della casa, quello da utilizzare con gli ospiti, più robusto e quindi più facilmente conservato. Ma ecco la nuova ipotesi. Perché non ragionare sul fatto che queste tazze non erano destinate a ospiti di famiglia, ma ad ospiti come avventori? L'ipotesi sembra trovare molti sostenitori nell'ambiente scientifico. Un'attività quindi molto diffusa nell'antichità greca sarebbe stata quella delle taverne, meglio le case di famiglia svolgevano anche un servizio al pubblico di mescita, di bibite e probabilmente anche di qualche piatto. Questo, dicono gli esperti, spiegherebbe anche una certa efficienza dell'economia diffusa della Grecia antica che le attività commerciali note non spiegavano finora in modo esaustivo. La Merck Serono, azienda internazionale che opera nel campo delle biotecnologie, propone agli studenti delle scuole superiori delle città di Roma e Milano però un'attività interessante. E di che si tratta? Laboratori di scrittura su temi scientifici seguiti da ricercatori che operano nella scienza, ma anche da divulgatori scientifici, da esperti, insomma, in come si raccontano le cose. Il loro obiettivo è insegnare le basi della scrittura creativa applicata a contenuti scientifici. E quello che si vuole ottenere è che i ragazzi e le ragazze si impegnino a produrre dei racconti, perché poi questi racconti entreranno in una delle sezioni del premio letterario Merck Serono, premio prestigioso internazionale dedicato a romanzi nei quali il tema di fondo, il riferimento narrativo, insomma, principale è la scienza. Per sapere dove e quando a Milano e Roma si terranno questi laboratori c'è un indirizzo mail, appunto, per avere informazioni. È una persona di riferimento, si chiama Alessia Salvatori, l'indirizzo è alessia.salvatori@hfconvention.eu. E si chiude qui questa nostra puntata di Moebius. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.moebiusonline.eu. Vi ricordo anche che abbiamo aperto la nostra pagina su Facebook, la trovate digitando Moebius Scienza. Iscrivetevi perché fra un po' vi chiederemo delle cose, ma ne riparleremo più avanti. Buona serata a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.